vabbè, alto il palazzo. E sono 5 piani più la mansarda, quindi sono 6 piani. Cavolo, già abbastanza alto allora, voglia. Tu mi hai detto che abiti praticamente vicino più o meno lì al Conad? Io abito tra via degli Astronauti e via Luna e Sole. Allora, ce l'hai presente dove l'autoscuola in via degli Astronauti? Allora, l'autoscuola in via degli Astronauti, l'autoscuola. Ma lì dove c'è la rotatoria, dove c'è il bowling, no? Ecco, bravo, praticamente io sono anche di fronte al bowling, lì c'è un parco, c'è tutto un muraglione che va da via degli Astronauti, fa angolo alla rotatoria, scende proprio di fronte al bowling via Luna e Sole, c'è un parco lì che è delle suore, io abito in quei palazzi lì dietro. Ah, ho capito, sì. Comunque c'è abbastanza in alto, là. Ma si vede l'antenna da dietro, c'è la rotatoria. Se vai dalla parte, diciamo, della scuola la vedi, devi spostarti perché ci sono degli alberi, oppure da via degli Astronauti dove c'è l'autoscuola di Gigi Chessa, amici Torrecano, c'hanno l'autoscuola lì da lì, guardi in mezzo agli alberi, già la vedi. La mia già è visibile, già l'hai vista, no? Sì, si vede, ha voglia. Comunque per il momento sta andando bene, là, è a posto. L'altra volta avevo un problema delle stazionali, strano, ma vero. Ho cambiato lo spezzone e poi ho visto che era tutto a posto. Magari era qualche pezzo di filo con qualche problema, magari, e l'hai risolto così. Io, grazie a Dio, ho messo tutto un cavo lungo da 25 metri e non l'ho tagliato. Quello che in più ce l'ho sul pensile in cucina piegato, ma non si vede, capito? Ah, ecco. Cavo grosso, certo, così è. Il cavo grosso. Sai cos'è? Anch'io ho il cavo grosso, ho il 213, quello doppia calza. È un cavo stupido, ecco, non viene bene a maneggiarlo, piegarlo e fare. Magari va bene quello, agganciato, fermo a un commutatore d'antenna e poi ti giochi con gli spezzoni, quelli più sottili. Mi posso lasciarlo anche su e magari mettere il commutatore, perché sì, hai ragione, è un po' difficile da domesticare, no? Anche se gli ho fatto qualche curvetta piano piano e sono riuscito a farlo passare dove volevo io. Adesso è tutto fermo, e poi penso che la plastica, una volta che sta ferma in quella posizione, si sagoma e rimane così, capito? Infatti, anche il tuo doppia calza? Signore, doppia calza, è un ottimo filo, è un ottimo cavo, è bello robusto, capito? Niente da dire, ho preso anche i TL, quelli buoni, quelli in bacchelite, perché quelli che vendono qua poi sono difettosi, sono in plastica e poi non ti avvitano dietro la radio, capito? Invece li ho presi su internet, un pacchetto da Seni avevo preso, due li ho dati a cosa? A chi li avevo dati due? A Natalino, gli avevo dato uno spezzone di cavo da 20 metri, sempre di questo Messi Paoloni, che prima ce l'avevo ma era troppo corto, allora non lo usavo più, ho detto Natalì, se ti devi fare l'impianto nuovo te lo regalo io, e gli avevo dato anche due di quei PL buoni, capito? Ma qual è quello che c'è tu? Lo 113, quello con la calza argentata o dorata? C'è la dorata questo. No, il mio è argentata. Diciamo che, come hai detto tu prima, fare PL non è semplice, non è semplice, è un po' un giramento di scatole, ecco. Poi devi avvolgere bene non è facile, ecco, è un po' difficilotto, che se sbagli, che li lasci un peluzzo di massa, sei fregato. Diciamo che io me li sono fatti sempre io e adesso ho una certa dimestichezza e se mi metto piano piano lo devi fare bene, con calma, essere preciso, come hai detto tu, quando ci sono i filamenti li devi piegare bene, tagliare bene in maniera tale che non ci siano contatti. grazie a Dio me li sono fatti sempre io e sono andati bene, capito? Con le saldature piccole, così con lo stagno già me la cavo, uso di quei saldatori a bassa potenza, capito, che non scaldano troppo e quindi non ti sciolgono le parti, perché in passato ne ho usato di quegli altri e ho fatto un sacco di errori perché si squagliavano tutti i PL, capito? E anch'io ho un saldatore che fa 30-120, mi sa, 30, se non mi ricordo, vabbè, è quello blu che c'è il tastino rosso sopra, sempre a penna, di quelli a penna, ma ti posso dire che mi trovo benissimo, mi trovo veramente bene con quel saldatore, riesco a fare anche piccole saldature. Esatto, più o meno come quello. Io addirittura nella radio che ho in macchina, che è quelle micro, diciamo, l'ho aperta per fargli una piccola modifica e praticamente ho tagliato un ponticello che c'era e ne ho creato un altro e ho usato quello lì e mi è uscito perfetto, capito? Sembra fatto di fabbrica. Poi ho solo dovuto spostare uno spinottino che c'è, ci sono quattro attacchi. No, l'ho spostato dall'altra parte e mi ha aperto la banda da 25,690 a 29,800 in quella che ho in macchina piccolina. Ah, è Cristo, va bene. Cioè, va bene, questo qua da 26, questo qua da 26, poi c'è ABCD, 6 bande. Questo sto usando adesso, però omologato, si sposta il jump e torna a 40 canali, capito? Va benissimo, va voglia, mi piace un sacco questo apparecchio, bello. Poi ho cambiato, non so se te l'avevo detto, ho cambiato la mascherina, che è quello che me l'aveva venduto, era un po' graffiata, qualche manopolina, i coperchi che me li ha venduti Gianni, doppio rum. Adesso è nuovo. Allora hai fatto un bel lavoro. Io lo stesso, questa radio che ho, non mi posso lamentare. In passato ne ho avuto di belle, grandi, eccetera, anche di quelle da proprio stazione base. Ma questa, pur essendo piccola, quando l'ho presa, ho visto che aveva M, FM, SSB. E praticamente è omologata, anche se io ci ho fatto quella questione là e non si vede niente, e se voglio la metto omologata, se voglio la metto per uso ampliato, capito? E mi dà qualche fatto in più. Ma questa è già da adesso? Sì, esatto. Ma c'è il microfono palmare? Adesso c'ho il microfono palmare, ho provato l'MB+4 ma non prende la preamplificazione. Funziona come microfono normale, si sente bene come questo perché ho fatto i collegamenti io. Praticamente ha un attacco a 6 pin questa radio, perché ha il microfono, quello che sto usando, con l'elettro che ha alimentato, capito? Invece l'MB+4 non ha quel dispositivo e quindi vanno solo collegati 4 pin. Devi lasciare fuori il pin dell'alimentazione e quello del cambio dei canali, praticamente. Quindi su 6 pin devi collegare 4 e li devi fare esatti, se no rischi di bruciare l'apparecchio. Però ho seguito bene le istruzioni e sono riuscito a mettere lo spinotto sull'MB+4, però non prende la preamplificazione. Funziona come microfono normale, come questo, si sente anche bene perché l'ho provato, mi hanno detto che si sentiva bene, però non preamplificava niente. Mi hanno detto che forse la radio dovrebbe essere aperta dentro, che c'è una vitina da toccare, però non l'ho mai fatto, capito? Forse dobbiamo mettere la LC, farlo uscire meglio, quello dell'amplificazione, e vabbè, comunque, è più comodo. Io vabbè, uso la MB+4, ma esce bene anche un microfono normale, ho fatto la prova l'altro giorno, va bene. Solo che è più scomodo con questo palmare. E vabbè, poi se ti viene bene a te, che magari tu sei lì, sei seduto, è così, a me viene bene così. Ormai mi sdraio nel letto, me lo metto sopra e parlo così. Sì, già vanno bene comunque, insomma, a me digitale non piace, eh. Io ho il Mobicom, la verità non mi dice niente, è bello, illuminato, perché c'è il frequenzimetro, però non mi dice proprio niente, preferisco sempre la classica analogica. Lo so, io quando abitavo a Bonorva, che lì avevo lo spazio, e anch'io ce l'avevo vicino al letto, avevo proprio un mobile dove ne avevo quattro di radio, cioè avevo tre alimentatori collegati, amplificatori, e due antenne separate, avevo un dipolo per fare i DX, e poi avevo un'antenna fissa, no? Tipo una 5 ottavi, e lì avevo tutto, perché avevo una stanza, una camera da letto per me, non mi disturbava nessuno, poi ce l'avevo all'ultimo piano, quindi con, mi ricordo, 8 metri di cavo arrivavo tranquillamente all'antenna, e quindi c'era anche un pezzo piccolo di cavo, qua invece sono oltre i 20 metri, capito? Io sono al terzo piano e devo arrivare tra quello che percorre dentro l'appartamento, quello che serve poi per attraversare sul piano del terrazzo, sono una ventina di metri, 22 metri, capito? Ma questo cavo passa in facciata, no? Però passa in facciata nell'angolo interno del cortile, non in facciata principale. Dietro abbiamo dei terrazzini e quindi neanche si vede, perché passa a fianco c'è la canna fumaria dell'impianto di riscaldamento, e quindi passa là e neanche si vede, capito? Poi passa dietro, ci sono molti terrazzi che sono chiusi con l'alluminio, per cui il mio invece non è chiuso, e quindi me l'ho fatto passare rasente al piano di sopra, e non dà nemmeno nell'occhio. E adesso, se dovessero fare le case nuove qua, non so quando, se lo metteranno anche qua al cappotto, questo non lo so. Mi fanno passare lo compro io, il corrugato, quello grosso, in modo tale che posso passare più cavi, o magari me ne faccio passare due, così sono più tranquillo, entra da lì e via. Non faccio passare il cavo per via di, insomma, passo il mio esterno, ne passano due di cavi, solo che vabbè. Vabbè, nessuno mi ha detto niente, però non è bello passare questi cavi così, a parte il fatto che se è dentro il corrugato è più protetto e tutto, è più, cioè ti dura di più, ecco, ma c'è così buttato sul tetto, non è che ti dura. Comunque, per avere, mi sa, questo cavo già 15 anni, più o meno una quindicina d'anni, me l'ha fatto Claudio, e ancora è buono, io lo volevo cambiare per quel problema là che ti ho detto prima, che viene un po' male a lavorare. Sì, anche qua forse iniziano i lavori con il bonus 110% e dovrebbero fare il cappotto alla casa, però a quel punto lì il cavo o mi va a finire sotto, capito, e poi è un casino toglierlo, però a questo punto cosa faccio? Quando inizieranno i lavori, se mi dicono sgancio, dissaldo il PL, lo sgancio, lo avvolgo su e quando poi terminano i lavori lo faccio riscendere, oppure chiedo se posso mettere un tubo morbido in maniera tale che da su lo infilo, capito, e mi scende tra il muro e il cappotto che faranno, capito, se c'è, risulta un intercappedine, se si può mettere me lo faccio fare così. Beh, approfittane, no, glielo compri il corrugato e glielo fai passare, magari cosa ne so, uno un po' grosso, in modo tale che domani se vuoi mettere un'antenna in più lo passi sempre lì, capito? Sì, un tubo grosso, oppure due, te ne lasci uno vuoto, nell'altro ci passi il cavo dall'antenna, poi se ti serve ce l'hai per un'altra volta, però non si vede niente, e approfittane. Sicuramente quando abbiamo la riunione il 5 di aprile, e quindi dopo quella data saprò se se ce li approvano e quando inizieranno, capito? Ma penso, siccome sono venuti già a fare la perizia e tutto quanto, hanno nominato anche già il direttore di lavori, che è l'amministratore, e poi il direttore tecnico, che dovrebbe essere questo dell'impresa, quindi immagino che dovrebbe andare in porto tutta la cosa, e vediamo quali sono i tempi, anche perché il mio palazzo ha la facciata sulla via principale, è un palazzo fatto a L, no? Quindi prima faranno la facciata principale, poi quando passeranno dentro, a quel punto sta quel cavo, gli chiedo se mi passano tipo corrugato, oppure se lo trovo liscio ancora meglio, un tubo flessibile lungo, capito, me lo faccio passare lì, così mi faccio un impianto come si deve, e sicuramente mi durerà, come dici tu, il cavo anche di più, perché è protetto, capito? Sì, sotto corrugato sì. Sì, bisogna fare così, infatti anche qua non lo so quando passeranno, adesso quelle di fronte a me le hanno già fatte, e infatti i cavi lì passano tutti dentro il corrugato, cavi dell'antenna, sono queste cose, tutte queste cavi così, non ce ne sono cavi esterni, niente, mi sa che Carlo, che in questo passaggio ti abbandono, perché non mi sono guardato manco una puntata di su che di ma di su che caramba di Puppa e Secchione, e niente, se ci sei domani mattina magari io già attacco, dai. Non c'è problema, Luca, io mi sto guardando la partita al televisore qua e chiacchierando, però se sei stanco fai pure, tranquillo, anche io adesso mi rilasso, perché ho visto che dentro in salone non c'è nessuno, me ne vado dentro sul divano e poi mi sparo qualche film se lo becco, capito? Domani non vado a lavorare, così mi alzo un po' con calma alle 8:30, alle 9, ci sentiamo nel caso domani mattina, ciao, buonanotte, grazie del QSO, alle prossimine Claudio. Luca, non Claudio. Ciao. Che a pomponi, ovvio, vai a tornare. E sono finito il cereale, ero con Giampiero, sono tornato la sera. Sono andato a fare il campone, in farmacia, poi da lì siamo andati con Giovanna al bar che c'ho qui di fronte, poi da lì sono dovuto andare allo spin, prendere il coso. Le latine, poi stavolta ho trovato, guarda, le gambe del pollo. Segnato l'Italia. Pacco, l'unico pacco che c'era, me l'ho preso al volo, me lo sono portato a casa. E poi ho comprato altre cazzo. Ha segnato l'Italia. Sono entrato. La sua storia. Figurati. Poi una giornata, tutto il giorno a pasticcio. Vabbè, io stavo chiudendo perché mi voglio guardare questo programma che c'è a coso. Come si dice? A Italia 1. E io, vabbè, non c'è problema, Luca. Guarda, pure non si mettere problemi, mi ha appena cenato io, quindi figurati. Quindi, io e Carlo stavo andando la cosa, adesso se la guarda come si deve, ecco, seduto al divano, così si rilassa. Ehi, Antone, dimmi una cosa, ma il mirto lo bevi tu? Certo che lo bevo il mirto. Ho bevuto il mirto anche la Mazzutti, c'è per questo, ma limoncello, vino, quello frizzante però. Perché? O così quando ci vediamo la prossima volta te ne do un paio di bottiglie di mirto buono. Quello fatto in casa è buono, se è fatto in casa. Di produzione, però è tipo mirto raro, quello fresca dorata, già sono mirti buoni. Cazzo, come vi piace Giampiero? Mamma mia, sarebbe avere una bottiglia da lì. E te lo ricordi, pesava 150 kg, è arrivato a quelli vendita. Mirto rosso, quello dello spinga. Sì, già sono buoni questi, già me lo ricordo un po'. Sì, già sono buoni, Carlo, anche quelli lì. Già è buono il mirto, un goccettino ogni tanto, già un goccettino. Io mi sono preso qualche sbronza, mamma mia, per carità. Ho iniziato a odiarlo, adesso da un po' che non è tocco. Aspetta, una bugia, quando è che l'ho bevuto? L'ho bevuto in pizzeria come si chiama la pizzeria? Da Bruno lì in piazza con Mariano, così si chiama, boh, vabbè. ci ha offerto la digestivo, mi sono bevuto un mirto, ma un paio di mesi fa. Io lo stesso non ne bevo, solo che ne ho una decina di bottiglie, praticamente. Lo sai che in aereo quando viaggi non puoi portare prodotti liquidi nel bagaglio a mano, no? Quindi sai quanto ne sequestriamo noi di quello, e quindi non so neanche più dove mettermelo. Vabbè, comunque se ci stanno a mettere, fatene qualche bottiglia anche a me, ce l'ho bevo io. Avanti Black. Buonasera, anch'io sono libero per il Mirko, Guarda come c'è Daniele Pompo e Carlo, o sono io, non lo sento bene, avanti Carlo. Il mirto già, se lo beviamo tutti insieme un giorno. Volentieri Luca, già te la faccio avere anche a te. Io sono più vicino, ovviamente sono a te. Così mi liberiamo. Che vallo, figurati. Quindi siete peggio della finanza, Carlo. Quando sei questa roba se la portano a casa tipo sigarette, roba del genere, cazzo. Le bagagli a mano, vabbè, a parte i bagagli a mano, però lì al posto di Alghero, ma non sai quanta roba si dimenticano, cazzo. Lì è bello quando vai all'asta mi avere soldi in contanti, cazzo. E sai quanta roba recuperi. A parte gli discorsi, ditemi quanto c'è nel carrato. Telefoni, praticamente si fa l'inventario, si manda tutto al comune, poi il comune li tiene in custodia per 9 mesi, se dopo 9 mesi nessuno li reclama fanno l'asta, capite, vendono tutto. C'è roba buona anche, a volte ci sono telefoni di marca, Samsung, anche di ultima generazione, tablet, computer, macchine fotografiche, la gente dimentica di tutto. Qualche giorno, guarda che capita. Se avrei avuto soldi, guarda, che non posso farlo con la carta, se no mi arrestano. Ma se avrei avuto contanti sei andato lì con, come fanno in America, con migliaia in mano, e all'asta mi sarei comprato un po' di quella roba, mi sarei riempito il fiorino, mi sarei riempito della roba che all'asta. Ma purtroppo che ci vuole gente che ci vuole soldi. C'era soldi in modo da poterla poi rivendere, capito? Cosa stavi dicendo, Daniele? Tanto di un controllo di radio, ma sta uscendo. Bene, fonte amplificato. Molto amplificato? Sì, abbastanza amplificato, sì. Non è che stai scendo male. Sì, amplificato, sì. No, secondo me è spostato di frequenza. Guarda, non si che ha abbassato un pochino, un po'. Perché i vati sono un vato tanto, 1,5. Aspetta Daniele, prova a abbassare un po' il mic gain, a vedere, abbassalo. Guarda, lo zio dei 12. Tu Carlo, come lo senti? Io non lo sento bene a Daniele, non è chiaro. Sì, gliel'ho detto, infatti anche stasera di abbassare un pochettino, poi lo sentivo meglio, però adesso è di nuovo sparato, capito, è metallica quasi sul finale la voce. Guarda un po' adesso, ora la cipolla. Ora va meglio. Confermo va meglio, prova a abbassare un altro po'. No, sono di fatto per il verso, la radio è sempre uguale. Sta andando bene, vedi, il bip prima distorceva, se è chiaro il bip. Allora, secondo me, siccome lui è attaccato, quando mette male, come si chiama, quando mette un watt, quindi in automatico aumenta l'amplificazione, il discorso è quello, hai capito? Quindi deve aumentare il watt. Se lui aumenta il watt, la radio si sente molto meglio. Il discorso è quello lì, lo fa anche con Saturn Echo. Quando io usavo Saturn Echo un watt, li mettevo lineare, sai come pompava? Un siluro era. Guarda adesso! Adesso fate il contrario. Com'è? Adesso sei complesso, vedi? Ho abbassato il watt e ho abbassato la modulazione. Adesso vado alle 12. Sicuramente sono amplificato. E ho fatto il watt, sai, con noi 6 watt. 5 watt, dai. Adesso va più chiara. Come te l'ho detto io. Guarda, adesso. Ora la cipolla, aspetta. quando che passo questo che si fa ma si fa che fa la base. Lo faccia a me, lo faccia qualche a me qui. Io un giorno ho preso un bicchiere 50, avevo cambiato la resistenza d'ingresso del finale e lo pilotavo per dire con forse avere 10 watt e cose del genere, lo pilotavo con 3. Cazzo, sai cosa mi dicevo? Accendi il radio che c'hai Antonè, stai uscendo con la mente, ma che cosa stai usando? Sto usando il tuo bicchiere 50, quando lo staccavo si abbassava la radio, come aumentavo attaccavo lì e aumentavo anche la radio, immaginati tu. Cappa, ma adesso sono liscio, e sono 3 watt e mezzo, l'importante è molto. Si nota, adesso vai bene. Sì, va un po' meglio, comunque Daniele. Guarda, questo non va attaccato, cosa dice? 1, 2, 3, 4, 5. Ci sei più compreso come voce. Guarda, avete la modulazione, guarda come. Insomma, anche Luca infatti ti sentiva così, cioè già si capisce, però adesso si sente anche lì, prima neanche se ti proveva il vino, come ti ha detto Antonello. Valvole, capito? Se avessi avuto con la valvola la differenza si avrebbe notata molto, ma molto di meno, perché la valvola è molto più seria come come audio mi, più che altro. Addirittura ti senti anche la voce quando ti metti a parlare, la valvola, senti gling gling gling gling gling gling gling gling. Poi anche lasciarla così, non so, Carlo, come lo senti tu? Un po' compresso ancora, però secondo me deve togliere tutta l'amplificazione al microfono, secondo me è troppo amplificato, non lo so, penso sia un problema del microfono, non della radio. Funziona più ecco, quindi è un microfono normale, hai capito? E fa tutto la scheda ecco fa. Perché vi siete sovramodulati? Dimmi Daniele. Ho detto così va meglio, sono 2 watt e mezzo, 2, non di più. Ecco, adesso la radio è perfetta come è abbassato, adesso è perfetta, ti senti chiaramente, si è abbassato appena appena il segnale, prima mi arrivavi fondo scala, adesso sei Santiago 9, però va meglio. Guarda così, 1, 2, 3, 4 e 5. 9 più 30. Sì, non il segnale, la radio mi interessa. La radio no, andava meglio prima. Perché ha passato un pelino. Guarda, adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Così, se la lasci così, per me è meglio di tutte questa. Guarda, lasciamo così, dai. Confermi, confermi Luca. Per me lo stai facendo bene. Io lo sento abbastanza bene, perlomeno. È questione solo di ingresso di pompaggio. Stacca lineare. Oh Daniele, cos'è meno. Ti sentiamo meglio, dai. Stacca, almeno sei più tranquillo. Dopodiché. Con un watt cazzo ti fa quel difetto, guarda. Ti amplifica quella cosa allucinante. Guarda adesso. Adesso non ti aspetta. Guarda, qui sono 2 watt. Ma il microfono c'è attaccato alla bocca, Daniele, svuotato un po' dalla bocca. Guarda, così, 1, 2, 3, 4 e 5. E vedi, ci sono confermate. Guarda, aspetta, avete parlato in due? Allora, riprova Daniele, fa un passaggio. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, così ho un palmo dalla bocca. Questa è perfetta, confermi Carlo. Adesso è il vero Daniele, come ha fatto quel passaggio. Forse ce l'aveva troppo attaccata alla bocca allora. Aspetta, c'è il bottile 45, aspetta che provo ad attaccare, a vedere. Guarda un po' adesso com'è. Prova. Guarda Lugariele, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso va bene, vedi? E non ho fatto nulla, è tutto come prima. Capito? Guarda un 1, 2, 3, 4 e 5. Sì, ma ti sei staccato il microfono alla bocca però. Eh sì, di un palmo. Prima non uscivi bene, Daniel. Prova ad attaccarti il microfono che c'avevi prima, vai. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Vedi che non esci bene, confermi Carlo. Signore, sì, se lo stacchi un po' dalla bocca va meglio. Ha fatto un'altra papera a Donnarumma e la Turchia ha accorciato 3-2. Tanto per cambiare, vabbè. E quindi è questione di come le metti 60, davvero con la distanza giusta se no non esce bene. Esatto, se lo allontani dalla bocca esci meglio. Infatti io dovevo spostarlo col fine corsa, lo sentivo bene, forse perché magari arrivava troppo sparato, troppo attaccato alla bocca. Dani, te lo devi staccare comunque, dai. Così arrivi limpido limpido. Capalusci, come questo è ancora un altro microfono, questo non è quello della CTE, questo è della Nerris, che è simile a quello della CTE, capito? Quindi pensavo che non ci serve. K, va bene. Andava avanti un po'. K, già va bene. Qui ci vuole un microfono con i toni alti da noi. Se no, quando si avvicina alla bocca al microfono gli fa quell'effetto, vabbè, tipo così. Allora, adesso va bene, lascialo così. L'importante non ti faccia ripartire stasera quando sei entrato, che in pratica si accendeva in potenza l'alimentatore. No, mi ha subito usato il scusate del K. No, Pompo, quello sai cos'erano? I tappi. Perché lui era dentro una scatola di quelli di compensato, no? È stato fatto una sorta di un altro sachet. E quindi adesso li ho tolto e quei tappi stanno andando, le pentole sono libere. Cioè solamente lo chassis suo, quello in alluminio. E fino adesso non si è più spento come prima. Ah, quindi riscaldava, solo riscaldava la ventola, non ce la faceva. E se lo fai come te l'ho detto io, ti fai un buco non sopra, li metti una ventola in modo che ti entri l'aria da fuori a dentro. Hai visto Carlo, tipo che facevo il 3 e il 3. Prima ha fatto una papera e ha preso un gol, adesso ha tirato fuori un gol quasi fatto. Alti e bassi, certo, Donnarumma, quello di poco fa. Ma io dico una cosa, Squesimo, no? Se ti fidi ti fai montare, non ho capito, così come fa la Juve, no? Parte bene e finisce sempre male. Oh, io non sto neanche guardando più di sicuro. Tanto ormai siamo a casa e ciccia, questa è un'amichevole. Posso, l'Italia spera in qualche ripescaggio secondo come vanno le cose, ma è molto difficile però, se a culo la ripescano, se no è fuori del tutto. Culo, non culo, ogni volta è così, facciamo l'uscita da leoni. Guarda che una volta era successo che noi eravamo quasi eliminati e... Ti ricordi che poi avevamo vinto i mondiali, mi sembra il mondiale europeo, adesso non mi ricordo bene. Eravamo sfacciati in teoria, dopodiché abbiamo rimontato come dei cusi, che poi ha pigliato la testata a Cese. Zidane. Te lo ricordi? Eravamo proprio in mezzo alla merda prima, poi abbiamo cominciato a rimontare, cioè eravamo in 10, eravamo in 9, poi un casino era. Boia, per carità, come c'è? Boia, va bene, questo già va bene, radio, sì. E adesso a posto, il problema sai cos'è, Daniele? Il pitto per i soldi così per campare la FIFA, hai capito? Ne hanno fatto poco di cose, questo qui, e quell'altro, e quell'altro. Gira stanno giocando cazzo ogni due giorni. Ormai i giocatori sono morti, non hai capito? Non ce la fanno più. questo ancora la FIFA non ha ancora capito, e quindi la questione è quella, se non giocano sono fregati, hai capito, comandano loro e basta, finché qualcuno, anzi più di uno, discenderà qualche infarto di tra quello che le cose cambiano, prima c'è più rischio, poi qualcosa della team, e poi quell'altro, e poi cosa di Berlusconi, e poi quell'altra partita, eccetera eccetera. I giocatori sono morti, non ce la fanno più, hai capito? Non ce la fanno più, sono proprio, guarda, fra poco si consumano del tutto, guarda. Prima erano belli tranquilli, si rilassavano, facevano dei cioè, erano più tranquilli. Adesso ragazzo è diventato un troiaio, è diventato. Non c'è più sport, questo non è più sport, questo è massacrare le persone. È come andare in bicicletta, no, la possibilità di andarci ogni mese, ci vai ogni 3-4 giorni a fare 100-200 km, a un certo punto cazzo le gambe non ce la fanno più. Certo che sì, io sono abbastanza tremante, ogni tutto il tempo c'è una partita, quella infrasettimanale, quella la domenica, poi le coppe, per quello, già lo so, è così purtroppo. Fin quando un giocatore non scende qualche infarto, più di uno, tu vedrai che le cose cambieranno, te lo dico io. Non si può giocare per campare, hai capito? Loro altri si sono sbattuti il coglione, ma ormai si è già capito, i giocatori non ce la fanno più, sono stressati, tra il Covid e cose del genere, e più i vaccini, cazzo, le gambe non ce la fanno più, il discorso è quello lì. Se li fai fare più, per dire, i 90 minuti, più i 3 quarti d'ora, primo, secondo, tempo in più, supplementare, cose del genere, tutti quanti c'hanno i crappi, a un certo punto si buttano a terra, va a far culo. Cava, è così, vabbè, però i soldi già li mancano, e quello è poco, ma c'è il culo. Sì. Adesso mi sa che sta per finire, ma è sempre a rischio l'Italia che prenda il pareggio. Sino alla fine dobbiamo soffrire, ma bene mera ragazzi, io faccio questo passaggio e vi saluto, ci sentiamo domani. Antonello, domani provo la tua radio e così ti faccio sapere, capito? Se ci sei domattina io la collego qua in casa, così vedo un po' come esce con l'alimentatore nuovo, eccetera. A domani, ciao Daniele, grazie del QSO, alle prossimine, ciao Antonello, ci sentiamo domani. Ciao Carlo, ci sentiamo domani, allora già sono a casa ogni mattina, non c'è problema. Anch'io chiudo ragazzi, ciao Daniele, ciao Carlo, so che non ha poco fa, ciao Daniele, e Pompuglio, a domani, ciao, buonanotte. Ciao Carlo, ciao Luca, alle prossime, dai. Cioè, già ci sentiamo domani mattina, sentate. Va bene, riprendi Pompu. Io sono qua, ciao Carlo, ciao Luca, a domani, buonanotte a tutti e due, non c'è problema. Bene, sì, purtroppo è così, ma ormai la partita non le guardo io, adesso sono stufo di guardare la TV, perché ogni giorno c'è sempre questo cazzo di guerra, persone a pezzi, quello, quell'altro, prima c'era il Covid a girarci i coglioni, adesso stanno girando i coglioni, cazzo, con questa cosa qua, ogni giorno, e poi cazzo, a parte il telegiornale ci sono anche quei programmi, cazzo, che parlano della stessa identica cosa, non c'è più niente, film non ce ne sono più, gli eventi non ce ne sono più, ma la TV più di questa modesta non senti, infatti non la sto più accendendo, cazzo, per sentirmi cazzo questa cosa qui che ti prende allo stomaco, guarda, che nessuno faccia niente perché hanno paura dell'atomica eccetera eccetera, ti prende un pugno allo stomaco, quindi a un certo punto ti vedo prima il Covid, cazzo, poi quell'altro, cazzo, mio, sì, dei morti, e poi positivi, e poi morti, e poi positivi, e poi morti, e che cazzo, non stavo parlando di altro in televisione. così è, un po' così. Infatti mi sono messo qua alle radio di nuovo e sono quasi strasse la paffa in fine, intanto non c'è nulla, è un'angoscia totale diventata. Oi oi oi. E vabbè, meglio fammi due chiacchiere e ti passi il tempo almeno. Quello sì, un po' di preparazione al limite di notte, e faccio un po' di DX, quello che almeno ci divertiamo. Oh, meno male c'è chiuso adesso, c'è un poco fa, insomma un'oretta fa, un'ora e mezza. Stava arrivando di tutto e di più, stava arrivando. Lo risentivi? Sono a banco, lo sentivo, mi sono bevuto la birra, non sentivo proprio niente, sentivo solamente il bicchiere che dovevo riempire insieme a mio fratello e mia sorella, eccetera, eccetera. Guarda, passa proprio l'ora così stasera, perché se stai a casa, guardate il televisore, ti sei fregato, guarda, ti viene l'angoscia, ti viene, quindi a un certo punto me ne esco e c'è la zocca in culo ogni giorno, più che sempre le stesse cose, lo sei sempre le stesse cose, cazzo. Ammazzati questi bambini, poi ammazzati quello, ammazzati quell'altro, cazzo, eccetera eccetera, ma va a far culo, cazzo. Poi prima il Covid, poi questa cosa, cazzo, adesso ci manca solo, guarda, che quando scendono gli asteroidi parlano solo di quello, vedrai. C'è un asteroide, domani ne arriva uno, dopodomani ne arriva un altro ancora, e poi fra un mese ne arriva un altro ancora, colpisce di qui, colpisce di là. È vero, solo quello c'è, ma che l'ha fatto 13, per carità. Ma spero che passi in fretta questo trambusto qua. Io provo a ridare. A quanto pare deve passare uno vicino adesso alla terra, quindi sono già scesi due, nessuno ha detto niente. Adesso deve arrivare uno vicino che passa in mezzo ai satelliti, quelli per telecomunicazioni, ci passa in mezzo. E sta arrivando uno bello grosso, sta arrivando. Speriamo, cazzo, che va, che scenda, cazzo, dove c'è Putin, a Mosca, lì a Cremino, così almeno lo distrugge e siamo più tranquilli, cazzo, abbiamo fatto 13, cazzo. O so che scendono almeno una quindicina di lì, cazzo, di questi corsi. Almeno ci abbiamo risparmiato i soldi. E invece non ci riescono a fermarlo, lo stanno facendo andare, aiuti a destra, aiuti quello, aveva la succede, capito? Stanno facendo, ci serve quello, vabbè, ci mettono la cosa e gli mandano le, vabbè, non la Russia, ma gli ucraini, dai, quello che dicevo li stanno mandando, allora quelli mettono gli uomini e il resto del mondo mette le armi. Beh, è sempre stato così, secondo te, come guadagni? La prima a vendere le armi sono l'Italia, mi chiedo, sai, se no non campa. Hai visto D'Alema, eh? In Colombia, cazzo, a vendere cazzo armi, ma è stato che l'abbiamo scoperto i giornalisti, se no non appariva nulla. 80 milioni ce li rivediamo tutti, ce li rivediamo, di sgobo, capito? Con 3 miliardi, come siamo 3 miliardi o 6 miliardi di cosa devono dare. E devo meditare ai colombiani, all'altra di cosa, per carità, prima delle armi allo Yemen, qui in Sardegna, dai tedeschi, adesso Leonardo, come si chiama, Ficantieri, sta prendendo armi a fuori, quindi i soldi si fanno così, mi lo sai, tu costruisci un'arma, magari un drone, quello che è, tipo Mosca, piccolino, cosa del genere, che ti buca, cazzo, un carro armato, cazzo, ti diventa dentro, te li prendi, sei a posto. Adesso potremmo usare, cazzo, come si chiama, a posto di quello, cazzo, prendere, come si faceva una volta, le catapulte e metterci un po' di dito di Vespa lì. Buttaglielo addosso, stai calcolo come se avessero fuggito in casa. Ah, vecchia maniera, la catapulte. Oi, oi, oi. Va bene, va bene. Ma mi sa che faccio fine alle trasmissioni, mi pompo. Va bene, ok, dai. Ci sentiamo domani allora. Comunque dici anche a te. E ci sentiamo domani. Adesso mi guardo tu. C'è qualcosa di buono la televisione, è bene, se no mi guardo tutto TV da telefonino. Almeno ci sono dei film belli di lì. Non parlano di questa merda di guerra e cosa del genere. A meno lì non ne parlano per niente. Brava, brava. E vabbè, dai, tu. Ci aggiorniamo tutta domani. Se poi vi sento domani mattina già, per farmi due chiacchiere, io sono qua. Buon proseguo e buon tutto, Antone, grazie al QSO e soprattutto all'eventuale ascoltone, dai, buonanotte e buon tutto. E io altrettanto, ciao Daniele, a domani, buonanotte. E io Antone, buonanotte, a domani, dai, ciao ciao.